Hadith numero 13 da Abu Hamza Anas bin Malik, che Allah si compiaccia di lui, l'attendente dell'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Disse il profeta: non crede nessuno di voi finché non ama per il suo fratello ciò che ama per sé. Riferito dall'imam al-Bukhari e dall'imam Muslim.